e come posso dire, è anche scientifico sulla, parliamo di distanze, parliamo di stelle che muoiono ma continuano, diciamo, a emanare luce, perché, no? Tutti quegli argomenti che ci interessano, che spesso affrontiamo, no, nei momenti, diciamo, più poetici della nostra quotidianità, no? Quando ci soffermiamo a guardare il cielo stellato, quando ci soffermiamo a capire, diciamo, che cos'è effettivamente il tempo. Quindi la cosa è andata così. Io avevo questo elemento fondamentale, che era la tangenziale di Roma, e l'altro elemento che è la Luna, dove c'era questo Don Chisciotte che urlava. Mi sono domandato più volte se era giusta questa collocazione della Luna per questo personaggio, e poi un giorno, vedendo un film, proprio mentre scrivevo, vedendo Solaris di Tarkovsky, mi sono reso conto che, ora non mi ricordo bene la scena, ma a un certo punto aprono un libro mentre vanno, appunto, si dirigono verso Solaris, aprono un libro, e questo libro è Don Chisciotte, no? E ho detto sì, allora sono sulla strada giusta. Don Chisciotte non è su questa terra in questo momento, è andato a finire nello spazio ipergalattico. E quindi, diciamo, poi lo spettacolo, diciamo, mira ad un incontro possibile o impossibile tra il Don Chisciotte della tangenziale est e il Don Chisciotte che abita sulla Luna, il Don Sì, Chisciotte originale. sì, sì. Senti Simone, in chiusura ci dai tutti i riferimenti per seguire la vostra tournée in Italia? Allora, noi saremo, appunto, al Deep Festival, adesso la prossima data, a Livorno, al Deep Festival, alla Fortezza Vecchia di Livorno con Luna Park. E dopodiché proseguiremo con una serie di date che non conosco, però. Si possono consultare. Scusami, il 19 luglio saremo a Kilowatt Festival con Eretico, di cui abbiamo già parlato in Sì. una puntata precedente. Eretico, dopo questo apparente nulla, che è l'ultima nostra produzione. E a metà ottobre debutteremo con un nuovo lavoro dal titolo Yorick, un Amleto dal sottosuolo, e al Teatro Era di Pontevera, con proprio una nuova produzione. E poi faremo, insomma, dei grandi giri con Eretico. Saremo al Teatro della Tosse a Genova, ci sarà una ripresa di Made in China, il nostro spettacolo su Van Gogh, che sarà al Bellini di Napoli. E poi, insomma, ci sarà anche Requiem for Pinocchio ancora in giro a Torino, e tante tante cose, insomma, Made in Sì. China, Teatro Fontana a Milano. Ora purtroppo io non ho il calendario con me, però, insomma, avremo un autunno molto, molto denso, e soprattutto la cosa importante è con tutti gli spettacoli, quindi Sì. con Requiem for Pinocchio, con Luna Park, con Made in China, con Eretico, addirittura col nuovo Yorick, con il quale saremo anche al Teatro India, per Teatri di Vetro, a novembre. E avremo modo di parlarne. Comunque, per far riferimento al sito internet Le Vie del Ful e la pagina Facebook. Certo, pagina Facebook Le Vie del Ful, altrimenti www.leviedelful.com, dove ci sono, diciamo, tutte le informazioni. E nulla, quindi spero, insomma, questo bel festival che fanno qui a Livorno, quindi, diciamo, che ci sia molto pubblico, come sempre, e di festeggiare, appunto, il Don Chisciotte a Livorno, ecco. Bene. Allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio, e a presto, e crepi tu. Ciao. Ciao, ciao, ciao.